Attenzione, attenzione, considerato lo strepitoso successo del film Barbarossa, la mastodontica fiction lombarda costata 30 milioni in parte statali, i ministri Brunetta e Bondi, di concerto con la Protezione Civile, hanno ordinato durante le ore di proiezione del film la circolazione a targhe alterne nei comuni di Legnano, Lurate Cacivio e Caronno Pertusella. Barbarossa ci ha portato via tutto, la nostra ricchezza, le nostre case, il nostro lavoro. I milanesi stanno alzando troppo la testa, Sire. È giunto il momento di ricordare loro quanto è affilata la spada dell'imperatore.